rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea che riguarda quindi temi europei e soprattutto giornali europei. E allora cominciamo dall'Economist, il settimanale britannico che però ha veramente una diffusione globale, ha persino un'edizione americana e un'edizione asiatica, a volte cambiano le copertine, in questo caso la copertina dell'edizione europea è Playing with Fear, giocando con la paura, e in copertina ci sono tre ritratti disegnati che sembrano un po', non so se avete presenti, i ritratti dei presidenti in California, cioè scolpiti nella roccia. E i ritratti sono, in primo piano ci sono Donald Trump e Marine Le Pen. Il commento dell'editor in chief, cioè il direttore dell'Economist, che è una donna, una giornalista, Zanny Minton Beddoes, è che Playing with fear, cioè giocando con la paura, questi che una volta venivano definiti o comunque vengono ancora definiti populisti di destra come Donald Trump e Marine Le Pen hanno, secondo l'Economist, giocato appunto con le paure dei cittadini in generale, con le paure della classe media e dei lavoratori, molto incentrate in generale sui temi economici, ma da questa tornata elettorale abbiamo visto incentrate anche sulla paura della sicurezza, sulla paura quindi legate al terrorismo. Passiamo a un altro tema, avete sicuramente seguito, perché Radio 24 l'ha seguita con molta attenzione, la conferenza COP21 che si è conclusa a Parigi e si è conclusa con un accordo che è tutto da dimostrare che verrà rispettato, però comunque è stato importante che tutti siano i leader di tantissimi paesi si siano riuniti lì e abbiano discusso per tanti giorni la questione del riscaldamento globale. Su Vox Europe, sapete il sito che cito sempre, meritevole perché segue molte questioni e fa un po' da monitoraggio di giornali che magari anche solo per questione di barriere linguistiche non riusciremo a monitorare, questa settimana pubblica una mappa interattiva realizzata dal CAET, il Climate Data Explorer, per il World Resources Institute, basandosi su diverse fonti come la FAO, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, e in questa mappa si vede molto chiaramente la quantità di gas serra emessi dai paesi europei espressa in tonnellate. E questo è stato uno dei temi principali della conferenza COP21, perché i gas serra sono strettamente legati al riscaldamento globale, e qui vedete che l'Europa comunque è forse meno colpevole, potremmo dire così, degli Stati Uniti, che sono comunque la prima economia al mondo, e della Cina, ma comunque anche noi facciamo la nostra parte. Un altro interessante articolo sempre da Vox Europe sulla questione del calcio, interessante perché Alina Mungiu Pippidi che è una studiosa specialista nelle questioni giudiziarie, dice, osservando tutto quello che sta succedendo nel calcio internazionale, in particolare ai suoi vertici della FIFA, dice: calcio e corruzione, se la FIFA fosse un paese gli Stati Uniti dovrebbero intervenire, un po' anche insomma giocando su questo fatto che gli Stati Uniti sono sempre un po' il poliziotto del mondo. Scrive la giornalista giovedì 3 dicembre, parlando delle accuse di corruzione di alti funzionari della FIFA, nel complesso si è arrivato per il momento a 41 accusati tra singoli individui ed enti. Il procuratore generale degli Stati Uniti ha detto: il Dipartimento della Giustizia ha deciso a porre fine alla dilagante corruzione che presumiamo esista all'interno della leadership del calcio internazionale, non soltanto per le dimensioni che questo fenomeno ha raggiunto, della sfacciataggine e dell'ampiezza delle operazioni necessarie a procrastinare un simile livello di corruzione, ma anche per l'oltraggio ai principi internazionali che questo comportamento rappresenta. Pensate un po' al calcio, che tra l'altro negli Stati Uniti, come sapete, stenta ancora a diventare popolare, perché gli sport più popolari e seguiti negli Stati Uniti sono il football, che non è il soccer, che è appunto il nostro calcio, il basketball, la pallacanestro, e il baseball naturalmente. Ma torniamo un attimo alla questione di Marine Le Pen, alla vittoria al primo turno delle amministrative. Poi vedremo domani cosa succederà, perché a una settimana di distanza ci sono i ballottaggi, vedremo se i successi del primo turno verranno confermati. In ogni caso, e questa volta è internazionale a dedicare alla vicenda la copertina proprio del numero di internazionale in edicola da ieri, e poi numerosi articoli all'interno. Allora, per esempio, l'articolo di Mediapart intitolato "Un'ombra nera sulla Francia e forse anche sull'Europa. Vi leggo la prima parte. Lo shock. La mattina del 7 dicembre la stessa parola compare sulle prime pagine del Figaro, quotidiano di centrodestra, e dell'Humanité, giornale vicino al Partito Comunista. Riassume lo sgomento della destra e della sinistra di fronte al risultato del Front National al primo turno delle regionali francesi, che sono state appunto domenica scorsa 6 dicembre, e rivela soprattutto il loro scollamento dalla realtà. Questo shock non è nuovo, va avanti da 30 anni. E l'analisi è un po' che forse abbiamo in Francia, ma non solo in Francia, abbiamo un po' fatto finta di non accorgerci che i partiti populisti, come li definisce l'Economist, di destra o di estrema destra, stavano comunque passetto per passetto aumentando i loro consensi. Sempre da Internazionale vi segnalo invece un articolo apparso sul Handelsblatt, che è un giornale olandese, intitolato L'ascesa inarrestabile di Marion Le Pen, perché sapete che Marine Le Pen, figlia del fondatore del Front National, è la leader del partito, però c'è anche la nipote del leader del Front National che si conferma un po' l'astro nascente. Vi leggo anche qui la prima parte di questo articolo. La carriera di Marion Maréchal Le Pen è cominciata quando aveva appena 2 anni. Posava con il nonno Jean-Marie per un manifesto elettorale del Front National. Sicurezza, la prima tra le libertà, c'era scritto sopra l'immagine del fondatore del partito, che sorrideva raggiante tenendo tra le braccia quella bimba che guardava un po' spaventata nell'obiettivo. Adesso è molto meno spaventata, più sicura di sé sicuramente, e ha dato il suo contributo alla vittoria del Front National, anche se, come forse avrete letto sui giornali, su certi temi le sue posizioni non sono le stesse di Marine. Per esempio, una su tutte l'aborto, Marion è contraria, vorrebbe addirittura arrivare a vietarlo con certe regole, mentre Marine Le Pen su questo non si è mai espressa in questi termini. Vi segnalo poi, per tornare un po' agli argomenti economici, la questione della BCE. Il 3 dicembre Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha annunciato nuove misure per la ripresa dell'Eurozona, probabilmente se l'avete sentito qui alla radio o letto sui giornali, tra cui l'estensione fino al marzo del 2017 del quantitative easing, il programma di acquisto di titoli di Stato e di altre attività finanziarie per 60 miliardi di euro al mese. Alla conferenza stampa per la presentazione delle misure, Draghi ha dovuto rispondere anche alle domande su alcune discrezioni uscite sulla stampa tedesca. E allora scrive Die Zeit: si tratta dell'acquisto di titoli di Stato da parte delle banche centrali di singolo paesi dell'Eurozona attraverso accordi chiamati Agreement on Net Financial Assets. Questo strumento permette ai singoli paesi di fare operazioni di politica monetaria, come comprare i titoli di Stato senza passare dalla BCE. Ma questi strumenti, l'acronimo è ANFA, continua il settimanale, sono accordi segreti. Si sa solo che attualmente il loro valore è di circa 575 miliardi di euro, il doppio rispetto al 2006. E quindi, insomma, un po' di richiesta di maggiore trasparenza viene dalla stampa tedesca sulle misure che la Banca Centrale Europea attuerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Per esempio la Frankfurter Allgemeine Zeitung sottolinea che il 3 dicembre alle domande sugli ANFA il presidente della BCE ha risposto irritato, che le strategie delle banche centrali nazionali sono difficili da capire. Draghi ha poi aggiunto che non poteva rivelare dettagli e che era meglio chiedere alle singole banche. Agli osservatori è sembrato che avesse qualcosa da nascondere. Insomma, vediamo, perché sappiamo anche che ci sono tante frizioni tra la Banca Centrale Europea e la Bundesbank, la banca centrale tedesca, che soffre un po' ogni volta che si dimostra quanto sia come da accordi, peraltro, come da accordi dell'Unione Europea, quanto sia importante, cruciale, e lo sia stato sempre di più nell'uscita, che tutti speriamo sia reale, dell'Eurozona dalla crisi, appunto come questo ruolo sia stato sempre più importante. Ma torniamo alla questione invece del terrorismo, di cui ci siamo occupati tanto nelle scorse settimane, e restiamo però sulla stampa tedesca. Ci sono state molte prese di posizione sui rapporti che la Germania dovrebbe avere con l'Arabia Saudita, la Germania e anche l'Europa, cioè con imporre sanzioni anche economiche, perché come molti pensano e sottolineano, l'Arabia Saudita è tra i finanziatori dell'ISIS. E quindi sulla Saarbrücker Zeitung è stato il capogruppo dei Verdi al Bundestag, al Parlamento, a chiedere questo, ma è successo anche in altri giornali come la Bild am Sonntag, dove appunto si sottolinea la richiesta richiesta di una posizione più chiara, più forte nei confronti dell'Arabia Saudita, che naturalmente sembra un po', e questo purtroppo è anche l'atteggiamento degli americani, sembra sempre un po' intoccabile, incriticabile, perché quale principale fornitore di petrolio nell'OPEC. È anche vero che questa posizione, visto l'attuale prezzo del petrolio, si è un po' indebolita, ma tant'è, all'Arabia Saudita sembra che nessuno abbia il coraggio di chiedere conto, per esempio, appunto, dei finanziamenti al terrorismo, in questo caso prima ad Al-Qaeda e ora all'ISIS. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.